La vita è come un libro nel quale in ogni istante è annotato ogni minimo particolare della nostra esistenza. Come cristiano, l'ho paragonata alla Bibbia. Conversavo serenamente con Lidia in merito al nostro passato e lei, che possiede una memoria formidabile, ricordava errori da me commessi durante il periodo del fidanzamento e, in seguito, per tutto il resto del matrimonio. Nulla da dire, perché sono un uomo mancante, ma in quel momento ho compreso che la vita è come il libro di Dio. La Bibbia. La Bibbia costituisce il libro del quale, in ogni pagina, è richiamata alla mente l'opera di Dio a favore dell'uomo. In essa possiamo trovare tutto e di tutto. Possiamo trovarvi delle grandi antitesi del volere di Dio, come il proibire tassativamente di fare scultura o immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo, quaggiù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Es 20.4, dove altrove lui stesso diede l'ordine di costruire il suo tempio e di scolpirvi dei cherubini, delle palme e dei fiori sbocciati. 1 Re 6.32. Oppure leggere nei 10 comandamenti il divieto di uccidere. Es 20.13. Mentre lui stesso, in altro luogo, ordina al vendicatore del sangue di uccidere chi ne avesse assassinato un parente. Num 35.19. Se non ci lasciamo sfuggire certi particolari, sempre nell'Antico Patto, leggiamo che Dio aveva pensato e fatto del male al suo popolo senza pentirsi. Zac 8.14, dove altrove troviamo invece stupende e meravigliose promesse di benedizioni come Minti beli bisiri libidiri larisci et acarisci et alinail bidiri larso mani piato. Io so i pensieri che medito per voi, dice l'Eterno, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Ger 29.11. Per questo, dal libro della Bibbia, si può trarre ciò che si vuole. A questo proposito, credo di non aver letto niente di meglio di quanto attestato nella prefazione della Bibbia, edita da Oscar Mondadori. La Bibbia, con la sua pretesa assoluta di essere niente meno che la parola di Dio, cioè l'espressione in forma umana del volere del principio assoluto, del principio senza principio che è all'origine della vita del cosmo, ha influito più di ogni altra cosa sulla storia dell'uomo occidentale. Sulla base delle sue parole, qualcuno ha donato la vita, qualcun altro la vita l'ha tolta, qualcuno ha lottato strenuamente contro il potere, qualcun altro ha fatto di se stesso l'essenza stessa del potere. Qualcuno ha venduto tutti gli averi dandoli ai poveri, qualcun altro è divenuto inopinatamente ricco. Qualcuno ha intrapreso le più ardite ricerche scientifiche, qualcun altro per i risultati a partire dalle parole della Bibbia, sono stati fondati stati, ma anche corrosi imperi, bandite guerre, ma anche predicate pacificazioni, creati ospedali e scuole, ma anche saccheggiati paesi e città, erette cattedrali, ma anche distrutte sinagoghe e moschee. Nunciak è papa che non l'abbia posta a fondamento delle sue affermazioni. E non ci è eresiarca o scomunicato che non mi si sia ispirato facendone la base del suo pensiero. Fu nel nome della Bibbia che Martin Lutero, dal punto di vista cattolico l'eretico per eccellenza dei tempi moderni, sottrasse interi popoli alla giurisdizione di Roma, e fu sempre basandosi su un passo della Bibbia, Salmo 7.7, che il Papa Leone X iniziò la Bulla Ex Urge Domine del 15 giugno 1520, che decretava la sua condanna. Persino il diavolo ebbe a mostrare di conoscere la Bibbia, quando nel deserto citò espressamente il Salmo 91.1112, tentando Gesù all'inizio della sua missione. Questa ricca, variegatissima e spesso contraddittoria storia degli effetti che la Bibbia ha prodotto nei secoli, in ultima analisi, trova la sua possibilità nella natura stessa del testo biblico, nel quale sembra quasi sia possibile trovare tutto e il contrario di tutto. Possiamo leggere le parole dell'amore più tenero. Isaia 49.1516, insieme a proclami d'odio senza pari, Salmo 137.89, inviti alla comprensione, al perdono e all'amore, Levitico 19.1718, insieme a grida di vendetta che fanno rabbrividire, Salmo 58.10, insegnamenti su Dio come amore misericordioso, Osea 2.1622, insieme a raffigurazioni che lo descrivono come giudice, volendo usare l'inappropriata ma efficace terminologia politica, possiamo affermare che la Bibbia è tanto di destra quanto di sinistra, tanto conservatrice quanto rivoluzionaria, e non a caso è stata utilizzata sia per assopire le coscienze e mantenere lo status quo. Quando l'ebreo Karl Marx parlava di oppio del popolo, sapeva bene a cosa si riferiva, sia per smuovere le folle, incitandole alla rivoluzione e al sovvertimento di ogni istituzione. Lea Bibbia, Oscar Mondadori Genesi. Un'analisi schietta e disarmante, riscontrabile anche nelle religioni che si rifanno alla Bibbia, nella quale uno trova una chiarissima evidenza di un Dio trino mentre un altro trova il contrario. Ci è chi vede nella Bibbia la salvezza solo per fede e chi invece la salvezza anche per opere. Che dire poi dell'elezione, della predestinazione, della certezza della salvezza, del battesimo dello Spirito Santo? Dottrine per le quali da secoli e secoli credenti sinceri e devoti non trovano un punto d'accordo. Il libro di Dio, cioè la verità, anziché essere oggetto di unione, si presta ad essere ragione di divisione. La vita è come un libro. Anzi, la vita è come il libro di Dio. Poiché siamo stati fatti ad immagine di Dio, anche la nostra vita, per forza di cose, è simile al libro di Dio. È vero che nell'esistenza di qualsiasi essere umano si possono trovare tante contraddizioni, ma sono proprio quelle contraddizioni a mettere in evidenza ciò che alberga nel profondo del nostro cuore verso la persona che stiamo giudicando. Come il libro di Dio, esso mette in evidenza la sincerità delle persone e coloro che sono sospinti dallo Spirito Santo. Lo disse Gesù con queste parole: «Se uno vuol fare la volontà di Lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio o se io parlo di mio». G.V. 7.17. E ancora, chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non le ascoltate, perché non siete da Dio. G.V. 8.47. Il giudizio con il quale giudichiamo le persone dimostra se nel nostro cuore vi è amore o altro. È vero che ci sono tanti errori negli altri, ma è altresì vero che ci sono anche tante cose buone a cui guardare. Se guardo solo gli errori, arrivo ad una conclusione. Se tengo presente solo le cose giuste e onorevoli, arriverò ad una conclusione opposta. Il prossimo è sempre quello. Sono a cambiare. Se non si vuole arrivare a dire eresie, come per la Bibbia, quando si esaminano in un modo errato le verità, come fece il diavolo con Gesù. Se si vuole evitare di trarre delle conclusioni sbagliate in merito al prossimo, è necessario non fermarsi su un unico punto di vista meno. Sia esso solo il male o solo il bene, meno, ma occorrerà tenere presente ambedue gli aspetti. Se nella persona che ti sta accanto vedi solo aspetti negativi, passati, presenti e anche futuri, allora sei costretto a vivere un rapporto che non è una relazione, non è convivenza, non è simbiosi o interdipendenza, ma di fatto un divorzio, una separazione, una disunione. Se vedi solo aspetti positivi, sei costretto ad avere un rapporto non realistico ma romanticizzato, che molto presto finirà. Se invece nel tuo prossimo cogli aspetti negativi ma anche positivi, anche qui sei costretto ad una inevitabile conclusione, la quale può essere tesa a voler migliorare il tuo rapporto, a volerlo aiutare, a comprendere meglio per crescere insieme, per essere più comprensivo. Ancora una volta, la tua reazione al libro della vita del tuo prossimo rivela ciò che tu sei, più di ciò che l'altro è. Rivela ciò che tu non dici, più che dire ciò che non devi dire. Quando metti del continuo in evidenza i difetti altrui, significa che sei insofferente a quei difetti, un po' come quando una persona ti è antipatica. Molto probabilmente lo è, perché è molto simile a te. La tua vita e quella del prossimo sono come il libro di Dio. Non c'è una traduzione della Bibbia uguale, anche se la Bibbia nei suoi testi originali è una sola. Così non c'è una vita uguale, per quanto tutte si assomiglino. In questo modo sono i libri delle tante esistenze umane. Tutti mangiamo, ma c'è chi mangia per golosità e chi invece usa il cibo per sopravvivere. C'è chi fa opere buone per meritare il paradiso e chi le fa come riconoscenza verso Dio. Il difficile è forse l'impossibile, sta nel conoscere le intenzioni del prossimo e, per questo, è saggio non emettere condanne. Quando recriminiamo tu hai fatto oppure tu hai detto, molto probabilmente diciamo il vero, ma abbiamo capito veramente il senso delle parole? Come per il libro di Dio. Quando Dio proibì tassativamente di fare scultura, immagina alcune delle cose che sono lassù nel cielo, qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Abbiamo capito che il riferimento non alludeva tanto alle immagini, quanto al divieto di non prostrarsi davanti a esse. Quando Dio ordinò di non uccidere, abbiamo capito che non si riferiva al non togliere la vita al prossimo in senso assoluto, ma era un divieto riguardante l'assassinio, cioè a farsi giustizia in modo illegale. Così, quando Lidia disse alcune volte, e con tono deciso, che avrebbe preferito aver sposato un omosessuale, avrei avuto tutte le ragioni per offendermi, ma ho ritenuto la frase non rivolta tanto alla mia persona, ma all'atto sessuale verso il quale ha nutrito spesso una certa avversione, suscitando in me tenerezza. Occorre non fermarsi alle parole o ai fatti, ma saperli interpretare, e, per intendere ogni cosa nel modo giusto, è necessario avere il cuore sgombro da ogni radice velenosa, amarezza o desiderio di rivalsa. Questo è il punto. Nel libro della vita del nostro prossimo ci sono tante parole, tanti fatti, che possono anche essere contraddittori, come del resto anche nel libro della nostra vita. Ma l'esistenza di un essere umano non è sempre uguale, come non sono uguali le circostanze, per cui a volte si può parlare in un certo modo, altre volte in modo opposto. Con una persona posso essere comprensivo, mentre con un'altra posso comportarmi senza nessuna tolleranza. Come del resto sta scritto nella Bibbia, non rispondere allo stolto secondo la sua follia, perché tu non gli debba somigliare. Rispondi allo stolto secondo la sua follia, perché non abbia ad apparire saggio ai propri occhi. Prov 26.4.5. Così del resto fece anche Gesù. In genere con i farisei era inesorabile, mentre con i più spregevoli aveva una compassione estrema. Il libro della nostra vita assomiglia molto al libro di Dio, e mi sembra di poter dire e concludere che, come giudichiamo il libro di Dio, così soppesiamo il libro della vita del nostro prossimo. Con un solo dubbio, forse il contrario. Come giudichiamo il libro del prossimo, così giudichiamo il libro di Dio. Se così è, capisco tante cose. GV 3.12 Maggio 2010